Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, antivigilia azzurra da una parte, attualità direi ad ampio spettro dall'altra nel menù approntato per oggi. Stamane a Coverciano c'è stata la visita di Collina, designatore di Serie A e B, visita di cortesia come usa in questi ritiri, ma ne ha approfittato Collina per un ripasso e un confronto sui parametri degli arbitraggi internazionali, insomma, che come è noto sono abbastanza diversi da quelli del campionato. Poi allenamento nel pomeriggio, probabile a questo punto l'impiego di un tridente tutto udinese tra passato e presente, visto che dovrebbero giocare Quagliarella e Di Natale esterni d'attacco e Iaquinta centravanti. La prima intervista che arriva via Sky, che arriva da Coverciano, è quella a Buffon a proposito delle scelte del commissario tecnico. Penso che meglio di lui la gestione di un gruppo non l'abbia mai fatto nessuno, per cui grandissima fiducia in quello che fa. Le scelte che lui fa sono frutto di ragionamenti e pensieri, insomma, le fa in maniera pragmatica, ecco, non sono frutto magari del momento, dell'esaltazione o delle passioni. Per cui se lui ha fatto questo tipo di scelta, significa che nella sua testa ha le idee molto, molto chiare. Buffon è sempre stato un lipiano convinto, la gestione del gruppo di Lippi è sempre stato uno dei suoi cardini, uno degli assi portanti su cui ha impostato sempre il suo lavoro di allenatore. Dire che nessuno abbia mai gestito un gruppo come Lippi, perché l'importante è esagerare. Sentiamo Buffon a proposito invece di Cassano. Del dibattito di Cassano mi sono fatto l'idea che, insomma, un po' il life motif, ecco, e come penso che però il mister in tutta onestà vi abbia spiegato con molta franchezza e molta serenità quali sono state il perché, ecco, di questo tipo di decisione, e credo che per l'età che ha il mister, per l'esperienza che ha il mister, non si possa ribattere niente, ecco, fino a prova contraria, ecco. Non ha intenzione, pare, almeno ufficialmente, di ribattere nulla, nemmeno allo stadio San Nicola, anzi San Nicola, per rispettare la pronuncia di Bari, in cui si giocherà non la partita di sabato, quella di sabato in trasferta in Montenegro, ma quella di mercoledì prossimo contro l'Irlanda di Trapattoni. I leader della curva ultra Bari 1976, della curva nord di Bari, hanno fatto sapere ufficialmente che l'esclusione di Cassano è una scelta tecnica che bisogna rispettare e che quindi non ci sarà alcuna manifestazione, alcun fischio, alcun striscione di ostilità nei confronti del commissario tecnico, né tantomeno dell'Italia. Sentirei ancora una voce azzurra proveniente dal ritiro, poi ci sarà tempo per altre più tardi, e poi cambieremo argomento e arriveremo a quello portante di giornata. Sentiamo Quagliarella ancora. No, ma chi è che non piacerebbe, sinceramente? Piacerebbe, che io credo, a tutti i miei colleghi andare in un club così, così prestigioso, però io credo che comunque ora sia prematuro poter parlare di queste cose. Poi fa più piacere ora in questo momento di parlare di Montenegro. Ho fatto 6 anni a Torino, perciò la conosco bene. Credo che l'ipotesi fosse quella di Quagliarella alla Juventus, no? È una delle voci di cui si parla di più in questi giorni. Dicevo, cambiamo capitolo, e lo cambiamo con una lunga conversazione con Gaillard è il portavoce dell'UEFA. Nei giorni scorsi ci sono state varie ipotesi su nuove iniziative dell'UEFA volte comunque a tutelare, come linea di principio generale, una maggiore equità tra i club, una maggiore equità economica tra i club europei, per evitare delle forbici eccessive, ma soprattutto per evitare che non siano rispettati certi parametri economici che diano un pochino più di credibilità a tante manifestazioni, a cominciare dalla Champions League. Si era parlato addirittura di una tassa del lusso sulle star del calcio, si è parlato di salary cap. Insomma, come sempre quando si fermano i campionati e arriva il momento delle ribalte internazionali, c'è spazio per argomenti di questo genere. Allora, prima di approfondirlo poi noi alla nostra maniera, sentiamo che cosa ha detto Gaillard. Noi abbiamo studiato la situazione negli Stati Uniti, dove ci sono diverse tipo di misure, tra cui questa tassa di lusso nel baseball. Poi ci sono i limiti sugli stipendi. Siamo convinti, dopo aver studiato da vicino queste misure americane, che sono poco adatte alla realtà europea, perché sono delle leghe chiuse, c'è una lega per tutto il continente, quando da noi ne abbiamo 53, le nostre sono aperte con promozione e retrocessione, quindi era più un elenco che abbiamo fatto di queste misure che non sono veramente applicabili alla nostra realtà. Quale potrebbe essere in questo senso invece una strada europea percorribile dall'UEFA? Lo stiamo chiedendo agli esperti e ci stiamo riflettendo sopra, no? Per noi le strade da percorrere prima di tutto saranno il frutto del consenso con i giocatori. Secondo, queste misure si applicheranno alle competizioni UEFA e poi se le leghe e le federazioni vogliono seguire e fare lo stesso a livello nazionale sarà responsabilità loro e decisione loro. Ma soprattutto noi pensiamo a un cocktail di misure che potrebbe prendere spunto da alcune di queste idee, limiti sugli stipendi, sul numero dei contratti che ogni club ha con giocatori, una ridistribuzione dei redditi più equa, ma tutto in modo graduale, senza pensare che possiamo trovare una panacea ai problemi economici del calcio europeo. Quindi non solo o non unicamente la tassa sul lusso e neppure nella sola interpretazione americana? Sicuramente no. La tassa sull'uso, come è applicata nel baseball, che funziona molto bene negli Stati Uniti, per noi non è applicabile. Possiamo guardare a delle misure che prenderebbero esempio da questa tassa, ma dopo un esame preliminare non ci sembra una pista molto ricca, diciamo. Un altro problema sollevato anche dai club principali italiani è quello del diverso regime fiscale che, a detta dei club italiani, avvantaggerebbe i club spagnoli e inglesi. Sono allo studio anche misure per rendere più omogeneo questo quadro così diversificato? Ma lei sa che a livello dell'Unione Europea tutte le discussioni che sono avute negli ultimi anni sulla questione dell'armonizzazione fiscale sono fallite, quindi è diventato quasi un tema tabù a Bruxelles. Noi non pensiamo che appartiene al calcio rilanciare questo tipo di dibattito. Se un giorno c'è un'armonizzazione fiscale europea, saremo lieti di vederne gli effetti sul calcio, ma non è all'ordine del giorno. Certamente non è la responsabilità del calcio. E poi quando uno parla con le diverse leghe o i diversi club, pensano sempre che l'erba è più verde nel campo del vicino. Quindi gli inglesi, parlavo recentemente con loro, dicevano: ma no, perché in Italia e in Spagna non pagano le tasse, noi dobbiamo pagare le tasse. Quindi vede che il parere di ciascuno è legato alla sua realtà nazionale e che molte volte sia un'idea poco precisa della situazione all'estero. Comunque la filosofia di fondo è: non si chieda a Nyon quello che non riesce a fare Bruxelles. Assolutamente. L'intervista era di Dario Ricci e Gaiara, oltre a parlare un eccellente, uno splendido italiano, è anche, come sentite, una persona non solo documentata ma spiritosa. Nel frattempo ci ha raggiunto Marco Bellinazzo da Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno. Dunque, tutto questo è stato innescato, per spiegare ai nostri ascoltatori che non avessero seguito la vicenda, che ha dei risvolti interessanti comunque, tutto questo è nato dal Financial Times, mi pare, no? Che ha innescato questa ha attribuito all'UEFA l'intenzione di creare questa tassa sull'uso. Sì, l'UEFA poi ha smentito, ma il tema c'è, ne parliamo anche noi spesso qui in trasmissione, quello di un maggiore equilibrio tra i club. Lo stesso Platini nella precedente edizione della Champions League, alla finale, pronunciò una frase, insomma, che ha fatto molto discutere, insomma. Spero poi di vedere un giorno club non indebitati che si giocano la Coppa Campioni. Tutto è partito da lì, anche perché non c'è dubbio che sia stata una frase molto ma molto forte, che ha segnato l'inizio, no, di un tentativo di riportare un minimo di ordine nei conti di chi si presenta in Europa. I tanto decantati club inglesi hanno oltre 3 miliardi di sterline di debiti nel loro complesso, per cui appunto l'erba del vicino sembra sembra più verde, insomma. Come diceva Gaillard. Ma chi le paga queste tasse? Chi le paga più seriamente le tasse? Noi, come dicono gli italiani o gli inglesi? Bisognerebbe chiedere all'Agenzia delle Entrate, che tra l'altro proprio la scorsa settimana ha stipulato un accordo con la Federcalcio e con la Lega per controllare meglio, diciamo, i bilanci delle società, i contratti, assicurarsi la regolarità fiscale dei club italiani. In ogni caso, che in Italia qualcuno cerchi di non pagare le tasse, insomma, è notorio, è una barzelletta, diciamo così, sì, diffusa e conosciuta in tutta Europa. Credo che, insomma, ci sia un grande rispetto fiscale, mi auguro ci sia un grande rispetto degli obblighi fiscali da parte dei club, anche se con dilazioni e grandi concessioni, no, da parte del fisco, come abbiamo detto qualche settimana fa. In ogni caso, c'è l'esigenza di garantire un maggior equilibrio delle competizioni sia nazionali che a livello europeo. Questo credo sia un dato acquisito e mi fa piacere, insomma, che la Lega, che la UEFA abbia consapevolezza di questo problema, e soprattutto che non ricorra a soluzioni facili e soprattutto non applicabili in ambito europeo, come appunto la tassa sul lusso, il salary cap o altre. Quindi no tassa sul lusso, no salary cap per una lunga serie di ragioni, ma soprattutto per ragioni realistiche, per ragioni di tradizione, insomma, per tante cose. Ma cosa allora? Quali strumenti da questi giorni di dibattito sono usciti, se non altro, come possibili? Da Gagliasso sono venute indicazioni molto, molto chiare. Io credo che, per esempio, una limitazione delle rose potrebbe essere una delle soluzioni, il che dovrebbe accompagnarsi ad una limitazione nell'uso dei giocatori stranieri. Per esempio Blatter oggi ha detto che famoso 6+5 lui, insomma, lo vede come obiettivo, ma si accontenterebbe anche di un 3+8, insomma. Sì, in ogni caso questo dovrebbe portare a una rivalutazione di Vivai, ad un limite a trasferimenti dei giocatori under 18, che è un altro tema su cui la UEFA sta battendo tantissimo. Introdurre un salary cap, una tassa del lusso in Europa diventa complicatissimo per le ragioni che Gaillard ricordava. In Europa sul fisco decidono gli stati nazionali, quindi non è possibile stabilire, certo, delle aliquote uguali per tutti, e soprattutto leghe nazionali prevedono appunto formule di retrocessioni e promozioni, mentre le leghe americane sono leghe chiuse, insomma, in cui tutte le squadre hanno la certezza di continuare a giocare quel campionato, possono pianificare i campionati e gli investimenti, soprattutto hanno i famosi stadi di proprietà e quindi sfruttano il merchandising, sfruttano lo stadio tutta la settimana, hanno introiti maggiori che nei club italiani. Faranno gli italiani gli stadi di proprietà, come la Juve ha iniziato a progettare, anche in parte a realizzare? Questo è il grande tema, insomma, ne parlano tutti, speriamo che non resti una bella idea e basta, insomma, come purtroppo spesso accade in Italia. Questo era un capitolo, no? Da un punto di vista internazionale, quindi fatti pochi, se vogliamo, però intenzioni certamente tante, e quindi qualcosa che si può... C'è un poi... passo in avanti che se ne sia parlato, insomma. Che si può poi tradurre in realtà. Mentre invece, infatti, adesso siamo vicinissimi al primo intervallo di giornata, quindi facciamo in tempo soltanto ad accennare questo tema, ma fatti ne stanno succedendo e di nuovo si chiama in causa l'UEFA e la FIFA insieme da una parte e la VADA dall'altra, cioè l'organismo antidoping mondiale, perché a questo punto è in atto uno scontro vero e proprio tra questi due. La guerra due. Ormai è dichiarata sulle regole antidoping, noi non perché siamo bravi, insomma, ma l'avevamo già preannunciato e intuito che, insomma, la regola della reperibilità 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, con questo obbligo da parte di atleti di punta di tutti gli sport di comunicare e indicare tutti i propri spostamenti tutti i giorni, 90 giorni prima, no, sempre almeno 3 mesi prima, almeno 3 mesi prima, 3 mesi dopo, dove sei in quelle varie, in quel momento possono aggiornarlo magari il giorno prima se c'è un eventuale contratto a tempo, inserendosi in questo ADAMS, questo famoso sistema, sì, informatico, che dovrebbe essere gestito dalla VADO, dalla federazione, questo non è ancora chiaro. Il tutto ci porta a dire, insomma, che gli atleti di vertici, dopo quelli del ciclismo, che già si vedono applicate queste regole da un anno, dopo i tennisti a partire da Nadal, dopo, diciamo, gli atleti di vertice di basket, pallavolo, insomma, in Europa anche i calciatori hanno iniziato a capire che la vada a far sul serio, e le federazioni stanno ingaggiando, diciamo, questo braccio di ferro con l'organismo. Si diceva allora in dettaglio, di entrare un po' nel dettaglio di questa nuova guerra vada contro FIFA e UEFA, contro tutti gli sport in realtà, contro tutte le discipline, ma il calcio a questo punto si è un po' ribellato. Io capisco, cioè è una di quelle situazioni in cui è difficilissimo prendere posizione, perché Marco, la Vada dice: se voi non pensate, leggo oggi questa dichiarazione del presidente della Vada, che per stroncare davvero il doping e per combatterlo fino in fondo non sia necessario controllare indiscriminatamente in ogni momento, non avete capito cos'è il doping. E io purtroppo temo che tutti i torti non li abbia, però quegli altri gli rispondono e dice: sì, però se pensate che uno per fare sport a qualunque livello che è debba non tanto essere peribile, ma preannunciare che cosa sarà della sua vita da lì a 3 mesi, beh, allora onestamente non è nemmeno più vita. Quindi Nadal ha detto che insomma nemmeno sua mamma conosce dove sarà il giorno dopo. Non ti dico le mogli, non, È un po' delicato effettivamente, sì. C'è da dire però che la Vada è dal 2004 che come dire, gestisce la lotta al doping. In questo primo quadriennio si è capito che i controlli in gara servono davvero a poco, se non sono accompagnati da massicci controlli a sorpresa fuori dalle competizioni. Questo è il dato ormai acquisito nell'esperienza della Vada. Da qui poi sono nate queste nuove regole. È chiaro che per esempio l'obiezione che muovono i calciatori o le società di calcio, tra parentesi, tra le regole della Vada c'è anche prevista un'ipotesi di responsabilità oggettiva nuova per le società di calcio, di pallavolo, basket, per cui se nel corso dell'anno due atleti incorrono in violazione della normativa antidoping, che riguarda non solo proprio l'ipotesi in cui abbiano usato sostanze dopanti, ma anche nel caso in cui, appunto, per esempio ricordiamo il caso Mannini-Postanzini, ci sia stato un ritardo o abbiano diciamo trasgredito alle regole sulla reperibilità, in quel caso anche per la società scattano sanzioni pecuniarie, ma soprattutto possono scattare delle penalizzazioni. Per il momento è un'ipotesi futuribile, ma questa regola c'è scritta lì e dovranno fare i conti anche con questa. In ogni caso, per esempio, Galliani diceva qualche giorno fa, o altri esponenti, altri presidenti insomma, di club italiani, che i giocatori sono già reperibili, di fatto sono 6 giorni su 7, per esempio, allo stadio per gli allenamenti o per le partite, quindi è inutile andare a rincorrerli quando sono a casa, quando sono in vacanza. Questo è vero, però è anche vero, come la famosa Operazione Puerto ha dimostrato. I trattamenti dopanti venivano fatti proprio durante le vacanze, i periodi in cui diciamo lontano dalle competizioni, proprio per evitare di essere scoperti in flagranza di reato, diciamo così. Cambierei argomento e tornerei a casa nostra, non per una vicenda non certamente piacevole, anzi semmai per una recrudescenza di violenza. Non parlo di Napoli-Milan domenica come della punta di un iceberg, ma in realtà sono ricominciate violenze assortite anche nel calcio minore, anche nelle serie inferiori. Ora, stamane il Corriere della Sera pubblica una lettera di risposta di Galliani, l'amministratore delegato del Milan, a un articolo di Alberto Costa in cui si denunciava questa famigerata tessera del tifoso su cui avevamo abbondantemente ironizzato già negli scorsi mesi, direi addirittura, no, Marco? Sì, Napoli-Milan è una partita emblematica di come le attuali strategie contro la violenza per certi versi funzionino, per altri no. No, in maniera plateale, come tra l'altro ha riconosciuto anche l'osservatorio nella riunione di ieri. A Napoli, per esempio, ma non solo a Napoli, le normative, per esempio, in materia di striscioni, in materia di entrata controllata nello stadio attraverso i tornelli grazie ai biglietti nominativi, spesso purtroppo volentieri, diciamo, per quanto riguarda chi froda poi le regole, si riesce a entrare comunque in questi stadi e queste regole vengono sistematicamente violate. Per di più, dal lato, diciamo, della tifoseria ospite, alla quale era stato concesso di recarsi allo stadio solo grazie alla presenza della tessera del tifoso, ha dimostrato appunto che anche la tessera del tifoso, alla quale si affidavano grandi speranze per garantire la presenza allo stadio soltanto di tifosi. Un po' più di grandi speranze, Marco, perché mi pare che il ministro dell'Interno in persona si fosse speso nel garantire che questa era l'unica soluzione. Assolutamente. Ora, se leggiamo come Gagliani dice, dateci tempo in maniera che questa tesa del tifoso diventi uno strumento più credibile, no, perché la tesa del tu mi facevi l'esempio della patente. Assolutamente, no, l'esempio che fa Gagliani in quella lettera, si parla di patente di guida e tra l'altro le spiegazioni di Gagliani a mio avviso sono molto criticabili, o per meglio dire, forse avevamo capito noi male su quella che deve essere la funzione della tessera del tifoso. Gagliani dice la tessera del tifoso è come una sorta di patente di guida che viene concessa a tutti, dopodiché se uno viene colto in fallo gli viene ritirata e non può più accedere allo stadio. Innanzitutto come diciamo sanzione legata al divieto di andare allo stadio sia in trasferta che in casa, insomma c'è già un provvedimento che è il DASPO, per cui se uno commette delle violenze quella è la DASPO, patente dello Stato, no? Senza bisogno della società. La testa del tifoso doveva essere qualcosa che garantiva in maniera preventiva, certo, una sorta di accertamento sull'onestà, sulla lealtà, sul fatto che appunto chi accede allo stadio non è un violento, non ha commesso nei 5 anni precedenti non ha commesso reati o generalmente insomma fatti di violenza legati a manifestazioni sportive, per cui doveva garantire un controllo preventivo, e mi risulta che quando uno fa la patente di guida, cioè per ottenere la patente di guida si fa un esame preventivo, invece qui la si concede a tutti, si concediamo la patente di guida a tutti e poi se chi l'ha avuta e si mette alla guida di un'automobile prova con un incidente, dopo ce la togliamo. Mi sembra insomma che sia necessario un po' di chiarezza su cosa è e cosa dovrà essere la tessera del tifoso. Se poi è semplicemente una carta di credito con cui semplificare l'acquisto dei biglietti, allora insomma forse bisogna trovare altri mezzi per combattere la violenza. Esattamente, almeno a me pare. A Gagliani possiamo dare, come dire, concedere le attenuanti generiche, perché io credo che non siano necessari 3 giorni, cioè che non siano sufficienti 3 giorni per rimettersi da uno shock come quello che ha patito la sera di domenica, perché poi è stato lui il primo, secondo me, giustamente, signorilmente, a, se non minimizzare, comunque a ridimensionare la portata dell'accaduto. Però l'agguato di cui è stato fatto segno assolutamente, e le fonti della questura concordano con la sua versione, con il suo racconto, e cioè per fortuna i finestrini di quest'auto evidentemente blindata hanno tenuto, hanno perché se no reggevano i finestrini, probabilmente avremmo raccontato un'altra e assai più agghiacciante vicenda. Ora come può essere maturata un agguato di questo genere? Si sono fatte moltissime ipotesi negli ambienti, addirittura si è parlato di un gruppo di tifosi milanisti in rotta con la società in trasferta a Napoli, anche se Gagliani ha smentito in quanto ha parlato diciamo di insulti a lui rivolti in relazione al divieto di trasferta che era stato imposto ai tifosi napoletani per gli episodi del 31 agosto insomma di Roma-Napoli. Giova dire a questo punto che per tanti anni Gagliani ha indossato una doppia giacchetta, che una era Milan e l'altra era Lega, e quindi a quei tempi, non per carità, non che fosse giustificabile un'aggressione di questo genere, ma l'attribuirgli responsabilità di provenimenti di Lega era purtroppo logico, no? Se non altro, cioè aveva un fondo di ammissibilità. Adesso è del tutto gratuito, perché insomma, assolutamente, a quanto si sa. C'è un aspetto insomma che è stato, se vogliamo, poco valorizzato dai media o poco considerato, ma che viene valutato attentamente negli ambienti insomma degli inquirenti napoletani. 3 giorni prima dei fatti di domenica è arrivata una importante sentenza di un tribunale che ha previsto condanne molto, molto forti, da 4 anni, 8 mesi a 10 mesi, a un gruppo di ultra accusati di svolgere diciamo un'attività ricattatoria nei confronti del club di De Laurentiis per ottenere evidentemente biglietti omaggio, per la solita illegalità che accompagna purtroppo l'attività dei club di calcio e non solo. Tra l'altro qualcuno forse ricorderà, tifosi del Napoli, che quando il Napoli militava in Serie B, parliamo del 2 dicembre del 2006, durante un Napoli-Frosinone furono lanciati petardi in campo, insomma, oltre quelli che normalmente esplodono allo Stadio San Paolo, e l'arbitro fu costretto insomma, a sospendere la partita per diversi minuti. Da quegli episodi è nata un'inchiesta che ha portato proprio alla luce questa attività denunciata dal club di De Laurentiis, che sta facendo molto per allontanare certe frange illegali della tifoseria. Qualcuno ipotizza insomma che ci siano stati reazioni, no, da parte di questi gruppi, chiamiamoli di ultra, per cui potrebbe essere stato insomma una reazione, sfruttando sempre purtroppo la tagliola della responsabilità oggettiva, che costringerà le società a pagare multe molto importanti, se non addirittura una squalifica del campo, perché l'osservatorio e il CAMS stanno valutando anche se arrivare a una squalifica del campo. Chiaramente, insomma, è una situazione non facile. No, e soprattutto c'è la sensazione molto precisa, ma da parte anche degli inquirenti e dei responsabili, che questa sorta di, non dico tregua, per carità, perché in ogni caso era armata, ma insomma, questa sosta di sospensione del peggio in realtà stia cominciando a cedere, e che quindi tanto vale cominciare a riaspettarsi, purtroppo, a meno di non rialzare il livello preventivo di guardia, cosa che con questa tessera del tifoso assolutamente risibile non mi sembra sia, no? Faccia parte. Abbiamo un minuto circa per varie ed eventuali o per un commento finale, Marco? Guarda, io direi che è stato fatto molto in questi mesi, sono diminuiti gli incidenti negli stadi, sono diminuiti i feriti tra i tifosi, insomma sono dati che l'osservatorio ha fornito non molto tempo fa, e sono risultati apprezzabili che vanno apprezzati, insomma, quindi non dobbiamo criticare tutte le misure adottate in questi mesi. Esiste però purtroppo una tendenza ad abbassare la guardia quando episodi violenti ed episodi come quello che è accaduto a Galliani non riportano alla ribalta il tema della violenza, ed è in quei mesi, quando non succede nulla, che le tifoserie tendono a riorganizzarsi, le tifoserie, certo, diciamo, magari infiltrate da frange della criminalità organizzata che in alcune realtà come Napoli purtroppo esprime, e c'è evidentemente l'esigenza invece di non abbassare la guardia in queste fasi e soprattutto di ripensare le politiche, se vogliamo, di contrasto alla violenza. Continuare per esempio a chiudere i tifosi i settori per i tifosi ospiti può essere una cosa positiva, magari se l'avessero chiuso per Napoli-Milan non sarebbero accaduti certi fatti. Assolutamente. Al suo tempo però finisce continuamente per impoverire le società, ed è chiaramente una strategia che a lungo andare le società patiranno per quanto riguarda i bilanci. Cioè, ci siamo, vecchio discorso, ci siamo abituati all'emergenza, ma nonostante ci siamo abituati all'emergenza, che non è mai una cosa positiva, anzi, questa emergenza purtroppo ha ancora le maglie attraverso cui ci sono infiltrazioni negative o violente. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Chiudiamo questo capitolo per oggi. Torniamo in onda con molti ascoltatori già collegati. Qui volevo sottoporre anche questo interessante parametro accennato ieri, secondo cui questo interessante studio, non parametro, secondo cui ormai su 208 nazioni affiliate alla FIFA, dunque su 208 nazionali, ce ne sono 92 che sono allenate da allenatori esteri, e cioè non del paese, che significa il 44,2% di allenatori stranieri. E questo, considerato che si sta parlando di nazionali, non di club, effettivamente è un dato significativo. Poi non importa, si può poi valutare se è positivo o negativo. Secondo me è negativo, perché io credo che una nazionale dovrebbe essere il massimo, no? della rappresentanza di quella nazione. Cioè già fa un po' ridere che si ricominci nel terzo millennio con gli oriundi, come ai tempi del Basso Impero, cioè come 50 anni fa, quando la nazionale italiana era una delle ultime, contava veramente come il due di picche, ed era appunto infarcita da oriundi, eccetera. Quelli furono i tempi peggiori dell'Italia. Il fatto che oggi si ripari di oriundi io lo trovo negativo. Comunque si può discutere su tutto questo. Io trovo che però un allenatore, un selezionatore estero sia tutto sommato un fatto ancora più significativo in negativo per quel movimento calcistico, per quella nazione. Questo studio poi cita alcuni esempi particolari, quindi ovviamente passa attraverso Trapattoni, cita come esempio positivo Capello, che probabilmente sta rilanciando l'Inghilterra, dico probabilmente perché poi i risultati si vedranno sul medio o sul lungo termine, ma cita anche dei casi in cui un allenatore straniero è stato decisivo, ed è il caso per esempio di Rehagel, il tedesco che condusse la Grecia, che insomma che all'unica storica vittoria del suo calcio, e cioè al titolo europeo della precedente edizione degli europei. Roberto ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie innanzitutto per farmi intervenire. Io le volevo dire due cose, cerco di essere rapido. Una su Cassano, che comunque a livello tecnico, a me come appassionato di calcio, come a tanti altri, sarebbe, a me piacerebbe sapere le motivazioni tecniche che ha considerato Lippi non convocandolo, cioè per una curiosità tecnica, anche in questo momento nel quale è infortunato Camoranesi. E un fantasista avrebbe fatto comodo. Se vuole ci provo io a sprecare io una sciocchezza, la continuità, la mancanza di continuità. Che io, perché poi Cassano nel corso della partita, cioè mentre in campo nazionale, le pause sono più consentite, in campo internazionale insomma, bisogna che un po' tutti si sacrifichino, soprattutto ad alto livello, per braccare l'avversario. Faccio l'esempio di Rooney contro l'Inter, no? Nella partita del Manchester United. Ecco, credo che questa possa essere una piccola, perché lei ha detto tecnico, eh? Se lei avesse detto ambientale non stavamo a sprecare il fiato, no? Evidentemente A livello di gioco sì, penso anche io, però sentirle da Lippi, che è un grande allenatore, insomma, che io stimo molto, perché certo. Per esempio, è stato interessante sentire la sua intervista dopo i mondiali, no? Sentirla dopo i mondiali, quello che lui aveva detto prima, per esempio l'impostazione della gara con la Germania, che è stata ottima con tutte le punte e per questo l'ha vinta. Okay. Poi per quanto riguarda il discorso delle squadre, degli investimenti, dei debiti, secondo me sarebbe interessante, piacerebbe sentire il suo commento, nel creare un discorso ad handicap come nel golf: chi più è in deficit, diciamo, chi più spende, tipo l'Inter che ha speso tanto e ha incassato poco, potrebbe avere un handicap, perché comunque ha investito molto, ha speso molto, ma tecnicamente si è resa molto al di sopra, per dire, di un Chievo, di un Torino e di un Catania, che è difficile competere con loro. Non male sul piano, credo assolutamente infattibile sul piano pratico. È un discorso un po' del galoppo, no? Gli diamo la zavorra, in poche parole, è più forte, li facciamo partire con l'handicap. È chiaro che si creerebbe un minimo in più di equilibrio, non so se ci si arriverà mai, tutto sommato meglio di no, però come in linea puramente di principio ne ho sentite di peggiori, insomma. Dario, Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Vorrei ritornare un attimino sul discorso dei controlli antidoping, che ha tanto suscitato clamore, soprattutto tra i big, che si vedono un po' così condizionati nella loro vita privata, eccetera. Io seguo da anni il nuoto giovanile in Italia, un ragazzo che nuota, e ci sono ragazzi molto giovani, anche di 16-17 anni, che arrivano ad essere nelle graduatorie mondiali e devono comunicare quello che dovrebbero comunicare i nostri calciatori o i ciclisti, eccetera, eccetera. Grado, certo, è antipatico se devi il giorno successivo andare improvvisamente a trovare il nonno dove devi comunicare, ma queste sono le regole. Se servono combattere una piaga molto difficile, come ha insegnato l'Operazione Porto, che si dopavano durante le vacanze perché preparavano le masse muscolari, eccetera, eccetera, eccetera, è giusto sottostare a queste regole, anche se con dei disagi. Che appunto i big, non solo del calcio ma anche di altri sport, che guadagnano fior di miliardi, siano un po' seccati di queste norme, mentre atleti normalissimi che studiano al liceo e poi vanno a fare le gare la domenica rubando spazio ad altre cose, lo fanno tranquillamente senza grossi problemi. Volevo sapere cosa ne pensate. Ma Dario, io penso che una reperibilità a 3 mesi comunque sia, io non sono a corrente di normative antidoping dettagliato negli sport di cui ha parlato lei, a cominciare dal nuoto, non ne so nulla sinceramente, quindi vado a orecchio, vado a buon senso, che riguardino il nuotatore sconosciuto oppure che riguardino il campionissimo del tennis o del calcio, io trovo che una reperibilità certa e garantita da qui a 90 giorni non, nessuno sia in grado di darla, non capisco. Penso che manchi proprio un presupposto, no? di conoscenza di quale sarà il proprio destino, di che cosa farà uno della propria vita da qui a 3 mesi. Secondo me è impossibile una storia di questo genere. Questa gente ha un calendario oppure chieda, oppure dica, cioè dica guardi, guardate che non so, in quel periodo cose, e magari il preavviso non sia di 3 mesi, sia di molto meno, oppure si informino all'ultimo minuto attraverso non so che strumenti e lo vadano a raggiungere per controllarlo in qualche modo. Beh, pretendere che uno 3 mesi prima sappia che cosa farà e dove sarà quel giorno, quella sera, a me sembra una follia. Poi e mi sembra che questo valga un pochino per tutti, per tutto il mondo dello sport, perlomeno dello sport professionistico, che si sta ribellando a questa imposizione. Poi può darsi che ci sbagliamo noi e che invece sia giustissimo, però il fatto che guadagnino tanto è sempre uno di quei parametri saponosi, non è che perché uno guadagna tanto può accettare una cosa se non è giusta, no? se è una vessazione, se è una complicazione, insomma io distinguerei, ecco, tra un livello di... Ho letto su un giornale, scrive Marco da Torino, che c'è un'accordata per comprare il toro formata da Moggi, Giraudo e Briatore, secondo lei è vero? Ma io ero rimasto, guardi, a Ciucariello, che mi faceva già abbastanza ridere come, no, come nome innanzitutto, e poi per il fatto, l'ho detto più di una volta, che giornali come La Stampa siano stati ostaggio per 2 mesi di questo modesto avventuriero, che poi non appena ha svelato la sua identità tutti si sono un po' vergognati di avergli dato tanto clamore e tanto risalto, e credo che per un soprassalto di pudore, che è quello che manca molto oggi nel nostro mondo, un po' tutti l'abbiano nascosto e cancellato. Credo che Moggi, Giraudo e Briatore avrebbero, forse sarebbero meno divertenti, ma avrebbero un altro tasso di, non voglio dire la parola, e quindi non so, no, non credo. È una voce che gira molto, ma molto periodicamente a Torino, e dato che la situazione a Torino, la modestia di Cairo e della sua gestione mi pare sia sotto gli occhi di tutti, questo autorizza ogni tanto anche il riciclo di voci fantasiose come questa. Mi pare che Giraudo e Moggi abbiano già fatto abbastanza per i tifosi storici del Torino mandando la Juventus in Serie B, no? Quindi credo che abbiano già dato dal punto di vista della loro passione, visto che Giraudo era tifoso del Torino. 26 marzo, che cosa sarà accaduto nella storia dello sport di oggi? Beh, a parte la nascita di Bruno Rocco, il primogenito di Nereo, che compie oggi 69 anni, auguri, ma insomma che tutto sommato non figura tra le date, no, del Gotha. Che cosa sarà successo? Ce lo ricorda Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 marzo 1939. L'Italia, campione del mondo in carica, affronta in amichevole a Firenze la Germania. Finisce 3-2 grazie a una doppietta dell'aziale Piola, che confeziona anche l'assist per il gol del bolognese Biavati. La nazionale di Pozzo, oltre ad allungare a 25 gare una striscia positiva iniziata 4 anni prima e che si sarebbe conclusa a quota 30, centra la 9ª vittoria di fila. La serie record di successi consecutivi si interromperà in occasione della gara successiva, il 13 maggio a San Siro, per effetto di un pareggio per 2-2 contro i maestri inglesi. Beh, era proprio il 39, giuro che non lo sapevo, e quindi il giorno, mese e anno in cui è nato il primogenito del Paron, Bruno, il figlio di Nereo e Maria Rocco. Tocca a Simone da Lucca, buongiorno. Buon pomeriggio, Garanzini. Dica. Senta, io sono abbastanza contrario agli oriundi nelle nazionali. A lei? Ma non è che Messi... Agli oriundi, sì. Uh-huh. Non è che Messi c'ha una nonna calabrese, per qualsiasi motivo, per sbaglio. Ecco, a quel punto, insomma, visto che ciascuno ha un prezzo, no, come è noto, il prezzo del nostro rigore, sta dicendo lei, potrebbe essere quello, cioè che fosse davvero un fenomeno. Io volevo dire una cosa, io siccome sì. Sono tifosa della Fiorentina, sono sposato con una napoletana tifosa del Napoli, sì. E c'è un bimbo di 4 anni e mezzo che è stato tifoso un po' dell'uno, un po' dell'altro, sì. Fino a gennaio, dove sono andato in 2 giorni a Barcellona. Ho avuto la fortuna di vedere Barcellona contro Deportivo La Coruña 5-0. Da allora mio figlio è diventato Messi, lui in persona, magliette e tutto quanto. È tifosissimo del Barcellona e non posso perdermi nessuna partita del Barcellona televisione. E per questo io devo dire la verità, lo devo ringraziare. Deve ringraziare suo figlio. Assolutamente lo credo, Simone. Io credo che il buon gustare di famiglia, per piccolo che sia, è proprio suo figlio, perché ci sono delle mezze ore di... Non dico delle partite intere, perché poi alcune diventano... c'è talmente tanto zucchero nel calcio del Barcellona che dopo un po' stucca, no? Finisce per essere talmente talmente è perfetto, no? dal punto di vista dell'impostazione offensiva, ma ci sono dei quarti d'ora, delle mezz'ore di una godibilità assoluta per merito anche e soprattutto di Messi, se parliamo di giocate individuali, ma per una coralità, per una sincronia o un sincronismo, che dir si voglia, di movimenti, per un'eleganza complessiva davvero che fanno di questa squadra in questo momento un divertimento. Poi, e quando io sento dire quelli per cui conta solo vincere, no? Ecco, il Barcellona di oggi è la smentita, nel senso che poi vince, ma se anche non dovesse vincere, beh, insomma, a lei che ha pagato il biglietto quel giorno e ci ha portato moglie e figlio, ma e a chi invece paga un abbonamento per vedere delle partite di calcio a casa propria, credo che in questo momento il Barcellona rappresenti la contropartita migliore, insomma, l'ideale. Adesso tocca a Claudio, chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, signor Gigi. Dica, Claudio. Senta, io ho assistito alla conferenza, ho visto per televisione la conferenza stampa della presentazione dell'allenatore del Torino, no, Camolese. Quindi avrà sentito allora, è stato un quadretto fantastico, perché Camolese sottolineava il fatto che questo contratto a scadenza a giugno era una sorta di assaggio per una collaborazione in caso di salvezza. Lui aveva il contratto per la stagione successiva. Sì. Allora l'ha sottolineata come una specie di matrimonio, ecco, con il presidente Cairo a fianco, e ha detto: speriamo di riuscire a salvarci in modo da poter sposarci l'anno prossimo. Il presidente Cairo ha fatto un salto e ha detto: no, attenzione, parliamo solo di convivenza per il momento. Cioè, allora, quando sento queste cose, non so con quale spirito un allenatore possa poter salvare una squadra quando un presidente... E dopo sono andati tutti e due a ridere come se fosse una sorta di incontro al bar davanti a 100 tifosi. Claudio, povero, sì, abbiamo capito, Claudio, grazie. Povero Camolese, a me sinceramente fa un pochino di pena, nel senso che è con tutta evidenza talmente innamorato del Torino, squadra. Lui è nato lì, è nato sia da un punto di vista anagrafico, credo a San Mauro, torinese, comunque nella cintura, e poi è nato e cresciuto nel Torino, ci ha giocato, l'ha allenato due volte, ha anche ottenuto dei buoni risultati col Torino, evidentemente ha parlato la voce del sangue, e lui non è stato capace in questa occasione di dar retta invece alla voce della ragione, che avrebbe dovuto suggerirgli, secondo me, di guardarsene bene, con tutti gli auguri invece che poi vada a buon fine. Ho detto un paio di fesserie prima, me lo fanno notare gli ascoltatori: nel 39 ci fu quella partita, nel 40 nacque il figlio di Rocco, perché sennò giustamente oggi ne farebbe 70 e avremmo dedicato magari un minutino in più, visto che è stato anche un buon calciatore della Triestina, invece è nato nel 40. Stefano ha chiamato dalla provincia di Modena, buongiorno. Stefano, buongiorno. No, Stefano, buongiorno mica tanto. Buongiorno, se riusciamo a ripescarlo. Nicola, da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, grazie per l'ospitalità. Sì. Volevo fare alcune riflessioni sulla prima parte, diciamo, della vostra trasmissione. Sì. Per quanto riguarda il discorso doping, salari, eccetera. Io penso che adesso con questa crisi qui ci potrebbe essere una Lega Europea, non per fare un campionato a parte, ma per mettere un tetto agli stipendi che siano un po' comuni a tutti. E che ne so, azzardo, tipo un 5 milioni di euro. Quindi il giocatore che si trasferisce per andare a giocare in una società, diciamo, da tanto prestigiosa, o perché ha finito gli stimoli con quella dove lui, diciamo, precedentemente giocava. I bilanci secondo me dovrebbero essere a posto, perché bisogna che siano premiate le virtù economiche, giustamente, del club, e non solo esclusivamente quelle sportive. Si possono valorizzare i giocatori nazionali con la proposta del 6+5 di Platini, se è attuabile, un rispetto ferreo dei contratti, per cui non che assistiamo a un giocatore che firma un contratto per 4 anni e dopo uno si sposta da un'altra parte, eccetera, per cui la valenza dei contratti rimane veramente carta straccia. Per quanto riguarda il doping, non si devono perseguire solamente i giocatori, ma anche e soprattutto i medici che somministrano quelle sostanze. Per cui, diciamo, un medico che somministra delle sostanze che sono proibite deve essere cancellato dall'album dei medici, invece questo mi sembra che non si faccia. Insomma, noi siamo riusciti in questo paese anche a fare delle amnistie per presidenti che avevano corrotto e comprato arbitri e se ne erano vantati, no? Sto parlando del signor Luciano Gaucci, che adesso che è rientrato all'esilio ha anche ricominciato a canassare. Quindi io spero, come lei, che questa crisi anche nello sport ci renda tutti migliori, no? Ma insomma, temo che ne dovremo dubitare per l'ennesima volta. Grazie Nicola, grazie a Flavio Soardi, redazione, grazie alla regia di Fabio Cantadori. Buon pomeriggio e giornale radio.